L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Quali sono state secondo voi le notizie che hanno avuto più risalto in questi giorni sui giornali, sulle televisioni, al bar? Una domanda a cui do una risposta per me molto semplice, molto facile, perché sfido chiunque a smentirmi. Le due notizie sicuramente sulla bocca di tutti in questi giorni, nella settimana cominciata sabato scorso e si è conclusa ieri per noi dell'ottavo giorno, sono due: da una parte la manovra presentata dal governo, dalla coppia Berlusconi-Tremonti, tra annunci, reazioni più o meno positive, aggiustamenti, rinvii, poi naturalmente vedremo come e quando prenderà forma nel pieno questa manovra pesantissima da 24 miliardi di euro, e dall'altra sicuramente le pagine dei giornali sono state riempite di cronache, analisi, celebrazioni della vittoria dell'Inter in Champions League, abbinate poi al fragoroso addio di Mourinho. Quindi manovra economica e calcio saranno le due architravi della nostra puntata di oggi, ce ne occuperemo ampiamente con due ospiti, però prima parliamo d'altro. Infatti in questi minuti che ci separano dalle notizie dal traffico vorrei utilizzare due servizi come copertina, sono due notizie molto importanti. La prima riguarda l'inchiesta su Finmeccanica, una delle più grandi aziende italiane che però è coinvolta a quanto pare in uno scandalo clamoroso, colossale, che tra l'altro ricordiamo Finmeccanica è collegata direttamente anche allo Stato. L'altra è la notizia che invece riguarda la sentenza di appello sul crack Parmalat e su Tanzi, che è stata emessa mercoledì. Allora partiamo con i servizi, prima Katia Caramelli dal GR delle 7 di ieri e poi Raffaella Calandra dal GR delle 7 di giovedì mattina. La presunta costituzione di fondi neri all'estero e l'accusa contestata alla società Selex, una controllata del gruppo Finmeccanica, che sarebbe oggetto di un'inchiesta giudiziaria condotta da alcune procure, tra cui quelle di Roma e Genova. Selex però smentisce categoricamente, escludendo che siano stati notificati a dirigenti del gruppo provvedimenti relativi alle presunte indagini. Nei mesi scorsi Finmeccanica era stata chiamata in causa nelle intercettazioni di conversazioni del faccendiere romano Mokbel, arrestato nell'inchiesta Fastweb. Quest'ultimo si vantava al telefono con alcuni conoscenti di essersi buttato nell'industria della difesa e di essere entrato in società con Finmeccanica, ma lamentava anche di non aver ricevuto benefici dall'investimento di alcune centinaia di milioni. Finmeccanica aveva però smentito collegamenti con il faccendiere, ma ora gli inquirenti starebbero verificando l'ipotesi dell'esistenza di una contabilità parallela e di costituzione di fondi neri su conti esteri che Finmeccanica avrebbe accantonato grazie all'attività di società collegate alla holding. 10 anni e un conto di oltre 100 milioni per il crack della Parmalat, a 7 anni di distanza, condanna confermata nelle pene e appesantita nei risarcimenti per l'ex patron Callisto Tanzi nel processo d'appello per aggiotaggio. A differenza del primo, il verdetto dei giudici milanesi di secondo grado impone infatti al cavaliere di Collecchio e ad altri due imputati anche il pagamento di una provvisionale ai risparmiatori, circa 140 milioni, pari al 30% del danno totale chiesto dalle parti civili. Sono sconcertato, commenta Tanzi, che al momento è ufficialmente nullatenente in quanto i beni sono sottoposti a sequestro a Parma, dove si giudica la bancarotta da 14 miliardi. Confermate le assoluzioni per i tre manager di Bank of America, ma per Giampiero Biancolella, difensore di Tanzi, il frazionamento dei processi non ha permesso di accertare le responsabilità delle banche. L'urgenza della cronaca economica mi costringe, con molto piacere peraltro, a richiamare a brevissimo stretto giro di tempo, insomma soltanto 2 settimane, Dino Pesole della redazione romana del Sole 24 Ore. Buongiorno Dino. Grazie Emiliano, grazie per l'invito. D'altronde insomma sono stati giorni della faticosa, tortuosa, e vedremo poi che forma finale assumerà manovra economica lanciata dal duo Berlusconi-Tremonti. Qualcuno ha già intravisto punti di vista diversi tra il ministro dell'economia e il nostro presidente del Consiglio, ma non entriamo nel merito politico poi di questa disfida all'interno del governo. Parleremo della sostanza di questa manovra, che è una manovra di 24 miliardi, quindi sì, 24,9 nell'ultimissima versione. Sono tanti soldi. Beh, è una manovra imponente, una manovra importante, anche impegnativa. Ecco, tu tra l'altro in un pezzo di ieri sul Sole, ma anche poi nel tuo intervento che ho sentito qui a Radio 24, hai detto che per la prima volta appare anche una parola che sembra quasi un'eresia per un ottimista per natura come Berlusconi, cioè la parola sacrificio, no? Parola sacrifici che peraltro è quella che stanno pronunciando tutti i leader in tutta Europa, quindi in questo non siamo particolarmente originali. Certo, fa una impressione sentire il leader che comunque ci ha abituato a slanci verso il futuro d'altro tipo, certo. Di ottimismo, parlare di sacrifici, ma in realtà la situazione in qualche modo lo impone. Ecco, adesso cercheremo di capire quali sacrifici, insomma, dovremo fare tutti noi. Prima ascoltiamo dei dettagli in più su questa manovra che ci aspetta per i prossimi due anni, la scheda di Anna Marino in onda ieri mattina nei GR. Tra conferme e aggiunte conta 54 articoli in 146 pagine l'ultima versione, comprensiva di sanatoria per gli immobili fantasma e redditometro. Sul fronte della pubblica amministrazione ci sarebbero sacrifici più forti, in particolare per gli statali. Oltre al blocco dei contratti fino al 2013, sarebbero ridotti a metà quelli a tempo e tagliati del 5-10% gli stipendi dei dirigenti a partire da 90.000 euro. Rinviata poi la riforma Brunetta legata al merito. Taglio anche ai ministeri del 10%, interventi su enti inutili. Sul fronte della lotta all'evasione, la tracciabilità dei pagamenti partirebbe dai 5.000 euro. Per le pensioni arriverebbe il nuovo sistema della finestra mobile. Raggiunti requisiti si lavora ancora un anno, ma nel ventaglio entrano anche il contenimento della spesa farmaceutica, limiti alle ricette mediche e i rincari sulle autostrade ANAS di 1-2 euro da luglio a seconda delle classi di pedaggio. Buone notizie per le imprese come l'IRAP azzerata per chi investe al sud, fisco agevolato per quelle europee e sui premi aziendali ai dipendenti. Infine, tasse sospese in Abruzzo. Dino Peso, io vorrei procedere per capitoli analizzando questa manovra molto complessa e molto complicata. Comincerei dai tagli, già sono stati annunciati da questo servizio, da questa scheda di Anna Marino, però per esempio manca la voce più significativa, quello di circa 4 miliardi e mezzo di risorse in meno che verranno trasferite dallo Stato alle regioni. E secondo me su questo punto si giocherà forse la partita più importante, se è vero, come ha detto Formigoni, quindi non certo un bolscevico anti-berlusconiano, il federalismo potrebbe incrinarsi, potrebbe andare in crisi. Ecco, sulla voce tagli, che cosa possiamo aggiungere, tenendo conto che poi ci sono delle voci, per esempio di risparmio, di sprechi in meno, insomma, che stanno già cambiando forma, per esempio sulle province, annunci poi ritirati in qualche modo, quindi chissà dove arriveremo alla fine dei conti. Possiamo dire senz'altro che questa manovra pesa per gran parte sul pubblico impiego, perché il congelamento della tornata contrattuale è reale, nel senso che non ci saranno aumenti contrattuali per 3,6 milioni di dipendenti pubblici, e ci sarà anche il blocco del turnover, quindi diciamo la botta sugli statali c'è. Quindi se il governo tiene fede agli impegni per i prossimi tre anni non si muove foglia. L'altro punto molto forte e anche molto controverso riguarda appunto il taglio agli enti locali, che è pesante. Le regioni, per la cifra che tu segnalavi, nel complesso si parla di 10 miliardi nel biennio, è una batosta non da poco. Adesso il problema qual è? Cercare di capire come evolverà il confronto con le regioni, che peraltro si è appena aperto. Ieri le regioni hanno firmato un documento comune, e probabilmente su questo attiveranno un confronto politico col governo, sperando di modificare la manovra nel corso dell'iter parlamentare. Il problema fondamentale qual è? Appare certamente in controtendenza rispetto al processo del federalismo fiscale quello comunque di adottare una strategia che è: io ti taglio i trasferimenti, chiudo i rubinetti, insomma. Chiudo i rubinetti e tu ente locale te la vedi con le tue risorse. E dall'altro canto c'è il discorso e il rischio più che fondato che le regioni, per far fronte a questi mancati, ma non solo le regioni, anche gli enti locali, i comuni e province, per far fronte a questi mancati introiti, debbano in qualche modo o far leva sull'aumento della pressione fiscale, dunque lo strumento delle addizionali, che è totalmente nella loro competenza entro certi tempi. Quindi indirettamente aumenterebbero le tasse, che credo sia il vero incubo di Berlusconi, che esatto. Forse ha mal digerito questa iniziativa. Aumenterebbero di le tasse locali e quindi comunque sulla busta paga andrebbero a colpire, oppure dovrebbero ridurre i servizi. Quindi su questo la partita è molto grossa, è molto importante e forse è la maggiore incognita di tutto il meccanismo che è stato messo in piedi con una manovra che però, vorrei ribadirlo, nelle sue grandi linee, nella sua entità è assolutamente necessaria. Questa non è una manovra che abbiamo deciso noi. Dettata dall'alto, dall'Europa. È stata dettata dall'Europa, lo dicevamo già la volta scorsa, perché già in dicembre il Consiglio Ecofin aveva previsto per noi una correzione biennale di questa entità. Il ministro Tremonti l'ha addirittura potenziata. Perché? Perché nel frattempo c'è stato il drammatico weekend dell'8 e 9 maggio in cui l'Europa ha rischiato di andare a fondo. E dunque, quando si decise il salvataggio della Grecia, esatto, lo ricordiamo. Bisogna dare un segnale soprattutto ai mercati, perché col debito pubblico che abbiamo noi, se c'è uno spostamento di fiducia sui titoli di Stato italiani, la questione si complica moltissimo. Ecco, forse sulla voce taglia alle regioni, che ci hai spiegato è complicato, implica dei sacrifici ed è forse la partita decisiva, c'è una notizia di speranza che è arrivata in questi giorni, che mi fa piacere segnalare, ovvero 6 tra ospedali, cliniche e studi di ricerca che hanno vinto un premio per l'innovazione in sanità secondo una graduatoria fornita dall'Osservatorio del Politecnico di Milano. Cioè sono 6 aziende, peraltro tutte collocate al nord, ma qui non voglio fare discorsi naturalmente nord contro sud, che comunque si sono rivelate virtuose nella gestione di certi fondi in prospettiva anche dell'innovazione tecnologica, che naturalmente nella sanità, certo, è fondamentale. Seconda voce invece di questa manovra, il recupero dei soldi, no? Che dovrebbero arrivare anche questi da certi strumenti, in particolare la lotta all'evasione fiscale. Ieri peraltro c'è stata questa notizia dell'imprenditore toscano che avrebbe evaso addirittura 500 milioni andando a lavorare, cioè lavorando in Italia ma fingendo di lavorare in Spagna, insomma, quindi notizie inquietanti e terribili. E poi c'è il mini condono immobiliare. Spieghiamo di cosa si tratta, tenendo conto che poi spesso queste voci vengono un po' sovrastimate poi nelle finanziaria dei vari governi. Dunque, nella manovra c'è un importante pacchetto per recuperare maggiori incassi dalla lotta all'evasione fiscale. Una delle norme più rappresentative, ma non è certamente la più importante, è appunto quella che prevede di utilizzare questa tracciabilità del contante dai 5.000 euro. Certo, prima operazione di Visco qualche anno fa. Di Visco, che però l'aveva portata, diciamo, a un livello decisamente più basso. Questo è un segnale. Ce ne sono tanti altri. Ci sono dei controlli, ad esempio, più stretti per quanto riguarda l'evasione dell'IVA, e questo mi sembra interessante. Il problema fondamentale, però, qual è? È quello di prevedere con assoluta certezza che poi questi incassi ci siano. Qui siamo al solito problema che, devo dire, si riscontra in ogni... Una volta si chiamava finanziaria, adesso non si chiama più finanziaria perché è stata riformata. Comunque, a ogni manovra di finanza pubblica, qualsiasi governo ha sempre iscritto una voce, lotta all'evasione fiscale, e ci ha infilato lì una cifra. Il problema qual è? È come si fa a stabilire prima quanto si incasserà? Meglio sarebbe dire a consuntivo: io ho messo in piedi una serie di attività che dovrebbero portarmi a incassare più soldi, sono stato bravo, ho incassato 3 miliardi in più. Però non fare troppo leva su queste previsioni, stai dicendo così. Sì, perché è rischioso, perché alla fine se poi questi soldi non entrano in cassa si crea un buco. I conti non tornano. Si crea un buco. Molto semplicemente. Sì. L'altra misura però nulla a che fare, o meglio in qualche parte rientra pure nella lotta all'evasione, riguarda l'emersione di questi 2 milioni di immobili cosiddetti fantasma. Questo in realtà, per come è congegnato, non è propriamente un condono, è una sanatoria che consente a questi immobili di emergere a livello catastale, dunque incassare da parte. Sì, tecnicamente non è proprio un condono. Adesso poi occorre vigilare, perché in Parlamento questa manovra secondo me verrà cambiata. Ecco, la terza voce invece di questa manovra è quella della crescita, nella quale forse si sono concentrate maggiormente le critiche anche di chi sostiene poi la bontà delle iniziative prese dal governo. E per parlare di crescita vorrei così sfruttare l'abbrivio delle parole che giovedì ha pronunciato Emma Marcegaglia alla Confindustria. Sentiamole. Promuove la manovra economica, ma chiede interventi strutturali sulla spesa pubblica e riforme che diano slancio allo sviluppo. L'assemblea di Confindustria è l'occasione per la presidente Emma Marcegaglia per tornare sulla delicata congiuntura internazionale. Una crisi, spiega il leader degli industriali, che ha colpito duramente il nostro paese. Per l'Italia il bilancio della crisi è stato pesantissimo e noi lo sappiamo. Abbiamo perso quasi 7 punti di PIL e oltre 700.000 posti di lavoro. Taglio della spesa pubblica improduttiva e ritorno alla crescita sono gli obiettivi da perseguire, spiega la Marcegaglia, che commenta così la manovra varata da Palazzo Chigi. Noi diamo sostegno alla linea di rigore del presidente Berlusconi e del ministro dell'Economia. Devono però ora essere varati interventi strutturali per incidere sui meccanismi di formazione della spesa pubblica. Servono inoltre riforme per rilanciare lo sviluppo. Confindustria insiste sui tagli ai costi della politica. È un settore questo che non conosce mai crisi o cassa integrazione. La presidente degli industriali si rivolge quindi a governo ed opposizione. No alle divisioni, dice il numero uno di Viale dell'Astronomia, che ai sindacati propone. Incontriamoci subito, diamoci l'obiettivo di una grande intesa per la crescita, entro l'estate. Anche le banche devono fare la loro parte aiutando le imprese, conclude la Marcegaglia. Cade infine nel vuoto l'invito pubblico di Berlusconi alla presidente di Confindustria a far parte della squadra di governo. Al silenzio della platea degli industriali il premier replica: allora non potete prendervela più con l'esecutivo. Il servizio, è giusto ricordarlo, era di Vincenzo Miglietta. Naturalmente, Dino, tu hai facoltà di commentare liberamente le parole della Marcegaglia, di quello che io chiamo lo sketch di Berlusconi che ha chiamato al governo la Marcegaglia, ma come abbiamo sentito non ha ricevuto consensi questa volta. Ma poi nella sostanza, insomma, ci sono o no questi interventi strutturali per la crescita, tenendo conto che l'OCSE prevede una crescita comunque per l'Italia inferiore rispetto ai nostri soliti partner, Francia e Germania in testa? Allora, diciamo subito che questa è una manovra che serve essenzialmente a ridurre il deficit, quindi è una manovra sul deficit. Dentro, dal punto di vista dello sviluppo, c'è qualcosa, ci sono delle misure che ovviamente però non sono in grado di dare una spinta fortissima alla crescita e all'aumento del PIL, che potrebbero venire solo, a mio avviso, da una consistente riduzione del prelievo fiscale, da un'opera, diciamo, più forte di liberalizzazioni, quindi più concorrenza nell'economia e meno vincoli burocratici. Questi sono i tre punti. Però, osservato questo, nella manovra ci sono dei segnali. Ad esempio, accolgo con favore la proposta che ci sia una tassazione IRAP zero per le nuove imprese che nasceranno nel Mezzogiorno. La vera passione, neanche tanto inconfessata, degli italiani è sicuramente il calcio. Sullo sfondo ormai incombono i mondiali che d'incanto trasformeranno più o meno 60 milioni di connazionali in commissari tecnici, anzi l'incantesimo è già partito. Però intanto la notizia in vetrina in questi giorni è lo storico trionfo dell'Inter, che ha coronato la prima tripletta del calcio italiano, perché nella stessa stagione ha vinto campionato, Coppa Italia e Coppa dei Campioni, attesa da 45 anni, perché l'ultimo trionfo nerazzurro risale agli anni 60, insomma era un'altra Italia, c'era il boom, c'erano i Beatles che cantavano, insomma potrei andare avanti all'infinito con l'elenco delle cose che c'erano allora e non ci sono adesso, e viceversa. Poi gli elementi di suggestione sono tantissimi, perché il presidente di allora era Angelo Moratti, oggi guida l'Inter il figlio Massimo, e poi due straordinari, specialissimi allenatori, Herrera negli anni 60 e Mourinho oggi. Mi sono forse un po' dilungato in questo avvio retorico per celebrare l'Inter, però mi sembrava giusto, e ho voluto come compagno di viaggio, come maestro di cerimonie di questi 10 minuti insieme, l'amico Carlo Genta della redazione sportiva di Radio 24. Buongiorno Carlo. Ciao Emiliano, buongiorno a tutti. Sicuramente ho dimenticato qualche dettaglio, ma adesso lo affiniamo insieme. Prima però ritorniamo all'atmosfera della finale esattamente di 7 giorni fa, sabato scorso, con la cronaca firmata da Giovanni Capuano. Due magie di Diego Alberto Milito, una per tempo per spazzare il Bayern nei fantasmi del passato, riportare l'Inter sul tetto d'Europa, regalare a Moratti una notte come la grande Inter degli anni 60. È finita 2-0 la finale del Bernabeu, partita difficile, non bella, combattuta, sofferta da nerazzurri fino alla rete di Milito e poi controllata, pur rischiando il minimo e provando a pungere in contropiede fino al raddoppio a metà della ripresa. Vittoria meritata alla fine, così come il trionfo in una Champions chiusa con 7 vittorie nelle ultime 8 partite, battendo i campioni di Germania, Spagna, Inghilterra e Russia. Trionfo del gruppo e di Mourinho, che forse si è seduto sulla panchina dell'Inter per l'ultima volta. Madrid l'ha applaudito questa sera, ora lo aspetta. Lui ha confermato di essere vicinissimo all'addio. Ormai su Mourinho non ci sono più dubbi, bisogna solo capire le modalità, ma tra poco parleremo di Mourinho. Restiamo per un attimo al trionfo dell'Inter, perché Carlo, con te vorrei chiudere un po' il cerchio, perché noi ci trovammo 6 mesi fa, era dicembre più o meno, inizio di quel mese, sembra preistoria rispetto a questi giorni. Erano appena stati fatti i sorteggi degli ottavi di finale di Champions, l'Inter era stata abbinata al Chelsea e entrambi ci siamo un po' spalleggiati nel pronosticare un andamento funebre, insomma, per tutte le italiane, Inter compresa, dicevamo tutte fuori agli ottavi. Poi siamo stati felicemente smentiti dal campo, soprattutto da questa Inter straordinaria, Carlo. Mi ricordo bene quel giorno, Emiliano, in effetti avevamo sbagliato tutto. Io per primo dicendo sento puzzo di bruciato, tutte e tre fuori, eccetera. L'ho sbagliato di grosso, non sulle altre due è andata grosso modo come ci aspettavamo, ma non sull'Inter invece che si è costruita strada facendo, insomma. Però allora, non per cercare giustificazioni, però allora non sapevamo ancora che l'Inter sarebbe stata questa, che l'Inter sarebbe stata davvero così matura per questa vittoria, perché non dimentichiamo che si usciva da quei giorni, ti ricordi quella partita con il Barcellona, io ti dissi, una squadra, quella la partita naturalmente del girone, quando l'Inter aveva la possibilità di far fuori il Barcellona nei gironi, ti dissi una grande squadra, una squadra matura per vincere la Champions League, va lì e gioca quella partita come fosse una finale. L'Inter quel giorno giocò una pessima partita, fece una figuraccia e eravamo rimasti con quella Inter. Nel frattempo erano successe diverse cose, la squadra era cambiata e alla fine è andata come doveva per una squadra che ha meritato tutto fino in fondo, Emiliano. Eh sì, tu hai fatto riferimento a quel 2-0 senza appello che subì l'Inter al Camp Nou di Barcellona ottobre-novembre, non ricordo esattamente il mese, poi ci fu anche quella pazza partita di Kiev dove l'Inter perdeva 1-0 e vinse nel recupero 2-1, di fatto ottenendo con quella vittoria insperata la qualificazione, e invece direi che proprio a Barcellona, nel ritorno eroico in 10 contro la squadra di Guardiola, ha costruito, mi metto nei panni di un tifoso nerazzurro, forse la sua sfida più eroica, più epica, veramente da tanti anni a questa parte, ancor più della finale. Direi. Quella è stata la partita capolavoro, secondo me. Gli esteti non sono d'accordo, ma che vadano a farsi friggere, perché questo è calcio, non è estetica. L'Inter è una grande squadra di pallone, è una grande squadra che va valutata sulle due metà del campo, perché per me la fase difensiva dell'Inter è uno spettacolo sportivo. Se c'è in giro, se sono in giro quelli che apprezzano solo i colpi di tacco, il possesso palla, i dribbling e le giocate spettacolari, possono anche andare al circo, secondo me. L'Inter è una grande squadra sulle due metà del campo, ti ripeto, la fase difensiva dell'Inter non è catenaccio come qualcuno sbagliando ha detto, è semplicemente organizzazione ed è per me un grande spettacolo sportivo, pertanto la partita di Barcellona è stata un capolavoro secondo me dell'Inter e di Mourinho, e io credo che quella sera l'Inter, i giocatori, Mourinho, i tifosi, tutti quanti abbiano capito chi avrebbe alzato la Coppa dei Campioni a Madrid, credo quella sera si sia capito. Guarda, io sono perfettamente d'accordo, sottoscrivo, magari qualche ascoltatore la penserà in modo diverso, noi siamo qui pronti anche ad accogliere le critiche, ottavo giorno @radio24.it, però Carlo, nonostante questa tripletta storica, straordinaria, nonostante aver eliminato in Champions i campioni d'Inghilterra, di Spagna e poi di Germania con il Bayern battuto in finale, alla fine sembra quasi un paradosso, ma la scena se l'è presa ancora una volta lui, il grande mago e furbone della comunicazione, ovvero Mourinho, che praticamente contestualmente alla consegna della Coppa dei Campioni se n'è andato al Real Madrid quella sera stessa. Insomma, al di là dei fatti che sono noti, tu che morale ricavi da questa storia di Mourinho, grande allenatore, uno dei migliori della storia forse, ma che insomma poteva forse aspettare un istante prima di uscire in maniera così plateale. Guarda, se sono andato poco fa a prendere caffè a Bar dell'Angolo, mi sono seduto e c'era appunto un crocicchio di persone che parlava di questo. In tutti i bar di Milano e credo d'Italia si fa questo discorso, anche perché alla fine non è il calcio, ma questo, il nostro sport preferito, la chiacchiera intorno al calcio. Ma hai ragione, insomma, tu sai che io adoro Mourinho, non l'ho mai nascosto. Secondo me è un grande allenatore, è il più grande di tutti nel gestire grandi squadre, che è uno sport, è un lavoro diverso rispetto all'allenare e a gestire squadre di altro tipo. Sai che ne apprezzo la dialettica, sai che apprezzo il fatto che comunque io ho massimo rispetto per uno che ci mette la faccia di persone tutti i giorni, però in questo caso ha sbagliato assolutamente tempi e modi, no? Bastava non rifiutare per una volta le luci del palcoscenico che lui tanto ama per lasciarle alla squadra. Questa era la gratitudine che l'Inter poteva chiedere e pretendere da Mourinho. C'era tempo di fare festa 48 ore e poi poteva tranquillamente uscire e dire andrò ad allenare il Real Madrid. La clausola accessoria esiste ed è giustissimo che Moratti pretenda che venga rispettata, anche perché sennò tutto non avrebbe senso. Per il resto Mourinho secondo me fa benissimo ad andare a allenare il Real Madrid, l'ha detto lui stesso, è il momento giusto, insomma. È finito, assolutamente, è un professionista, noi dobbiamo smetterla di considerare lo sport, di riempire lo sport di cose che non appartengono allo sport. Lo sport è un lavoro come un altro, quindi da un punto di vista professionistico e professionale lui si è stufato del calcio italiano e non riesco a dargli torto, vada ad allenare un grande club per un mucchio di soldi. È un professionista, è un uomo molto ambizioso, la scelta non fa una piega, secondo me. Sui tempi e sui modi invece ha sbagliato tutto, però insomma sappiamo le Mourinho, questo è il prezzo da pagare quando lo prendi, no? Senti Carlo, qui abbiamo capito, abbiamo apprezzato in Italia il fatto che Mourinho è un personaggio che o si ama o si odia, insomma non ci sono troppe vie di mezzo. Io per esempio sono un assiduo ascoltatore di Gigi Garanzini, che tu naturalmente conosci molto bene, che non ha il vizio invece italico di salire sul carro dei vincitori, e anche il giorno dopo la vittoria della Champions ha mantenuto fermo il suo baricentro, cioè ha detto sull'allenatore Mourinho non si discute, sull'uomo invece ho molti dubbi. Io vorrei chiederti Carlo, secondo te cosa lascerà, se lascerà qualcosa all'Italia Mourinho, che comunque in due anni ha generato sicuramente un terremoto? Ma lascerà una mentalità diversa nell'Inter innanzitutto, quindi il suo lavoro in questo può essere proseguito, anche se io credo che per l'Inter l'addio di Mourinho debba essere una grande occasione per cominciare a scrivere una pagina nuova e totalmente diversa. Lascerà un sacco di lavoro da fare ai giornalisti che con lui andavano a nozze naturalmente, però non lo dico per ragioni utilitaristiche. Finalmente nel calcio abbiamo avuto uno che ha avuto il coraggio, rischiando di suo, di essere un po' meno paraculo di quanto siamo abituati a... Più prosaicamente ha rotto gli schemi, diciamo così. Ha rotto gli schemi, ha avuto il coraggio anche di aprire una via dialettica che nel calcio non c'è mai stata. Non credo che lascerà molto altro se non appunto una stagione in cui l'Inter si è tolta la scimmia dalla spalla, e adesso certamente sarà un'altra squadra, adesso certamente potrà davvero programmare un futuro che magari può non essere di assoluta competitività europea già dalla prossima stagione, anche perché è una squadra che ha un'età media molto alta, quindi potrebbe essere una chance per scrivere una pagina nuova per l'Inter. Quanto ecco, ma da quale allenatore si riparte? Poi questo è il nodo più importante da sciogliere per l'Inter. Chi lo sa? Questo è un domandone. Sappiamo che non sarà Mihajlovic, e tutto sommato io condivido, perché sarebbe stato un azzardo troppo grande quello di dare una squadra di questo tipo ad un allenatore che è poco più che esordiente, anche se è vero che conosce molto bene questo gruppo. Sono dell'idea che l'Inter debba ripartire da un allenatore top, da un allenatore che conosce le strade europee, che sa come si fa ad arrivare in alto e a vincere la Champions League. Quindi Capello, mi sembra di leggere tra le righe del tuo identikit. Capello può essere un'idea, la storia lo insegna, no? Sai, Capello era arrivato dopo Sacchi, che era un allenatore che ti chiedeva tutto esattamente come Mourinho, un allenatore che ti chiedeva l'anima, è arrivato Capello e ha raccolto il succo di quel lavoro. Capello può essere un'ottima idea, ma anche Hiddink, di cui si parla, può essere una splendida alternativa. Poi c'è questa voce di Guardiola che tutti a dire no, Guardiola è impossibile, Guardiola no, vediamo. Beh, è la più affascinante, perché sarebbe un cambio anche di personaggio, di stile, di modo di giocare, insomma un cambio a 360 gradi rispetto a Mourinho. Sì. Senti Carlo, vorrei scivolare rapidamente su un altro argomento molto importante, che forse non appassiona così tanto i tifosi, ma secondo me è decisivo per proiettarci anche nel prossimo campionato. È una notizia che è arrivata lunedì, ce la racconta questo servizio di Roberto Bonaldi. Senza la loro quota di diritti TV da mettere a bilancio, molte squadre del campionato di calcio avrebbero rischiato la bancarotta. Un pericolo però scampato. Il Tribunale di Milano salva il contratto tra Sky e Lega Calcio per la trasmissione delle partite di Serie A delle prossime due stagioni. Un accordo da 1 miliardo e 149 milioni di euro, a cui si era opposta l'emittente satellitare toscana Conto TV. Aveva lamentato una scarsa concorrenza nella partecipazione al bando di assegnazione dei diritti. La Corte però ha respinto il suo ricorso, parlando di una solo teorica possibilità di accedere al pacchetto dei diritti per la TV toscana. L'emittente, dice ancora la sentenza, potrebbe comunque trasmettere le sintesi e le partite di Serie B, ma Marco Crispino, editore di Conto TV, non ci sta. Serie B e con le sintesi non si può fare concorrenza, non sono paragonabili assolutamente alla Serie A. Non esiste solamente l'Italia per appellarsi, visto che c'è un sistema Italia che secondo me non funziona così bene, è possibile che decidiamo di rivolgerci alla Corte Europea. Intanto però i conti del calcio italiano tirano un sospiro di sollievo. Carlo Genta sempre in collegamento con noi, telegraficamente a parte Conto TV, tutti contenti per questa sentenza? Beh sì, dai, era l'unica possibile, altrimenti sarebbe stato un terremoto troppo grande da metabolizzare per il calcio italiano. Vicenda che ha fatto molto rumore, che probabilmente ha fatto suonare qualche campanello di allarme per il futuro, però onestamente mi sembrava già scritta questa sentenza, Emiliano. Senti Carlo, io ti ringrazio, ringrazio Carlo Getto, visto che il tempo è tiranno, ti esento dal commentare due notizie sfiziose, quella che riguarda Berlusconi che tra un articolo e l'altro della manovra ha detto che se fosse stato lui allenatore del Milan avrebbe vinto lo scudetto, e poi la debacle italiana invece per gli europei 2016 non sono stati assegnati ai nostri colori, andranno alla Francia. Meditavo sul fatto che molte cose sono rimaste escluse dal nostro racconto, molte notizie importanti, per esempio Berlusconi che cita Mussolini, però francamente non mi vorrei dilungare troppo su questo, se ne è già parlato ampiamente, oppure c'è lo scandalo pedofilia che si allarga sempre di più all'interno della Chiesa, e tra l'altro in settimana abbiamo visto un arresto eccellente perché un sacerdote italiano, Don Domenico Pezzini, è finito in manette, e poi Bagnasco invece addirittura ha parlato di possibili coperture di casi di pedofilia dentro la Chiesa, quindi comunque questo magma sollevato dallo scandalo pedofilia sta determinando degli scossoni all'interno della Chiesa, credo alla lunga positivi. Poi la politica in questa settimana ha ruotato naturalmente attorno alle vicissitudini della manovra economica, ma anche al disegno di legge sulle intercettazioni che la settimana prossima arriverà nell'aula del Senato. Si continua a procedere nel lavoro di Lima per smussare gli angoli di un provvedimento che continua comunque a dividere e a scontentare molti addetti ai lavori, ma anche no. Il punto a questo punto è stato siglato direi giovedì e lo riascoltiamo in questo servizio di Stefano Totoro. L'ennesimo ricorso alla fiducia sembra scongiurato, quantomeno non dovrebbe essere il caso del DDL intercettazioni. Ad assicurarlo è il ministro della giustizia Alfano, che così smentisce l'ipotesi circolata nei giorni scorsi. Il percorso verso quella che da più parti è stata soprannominata legge bavaglio continua. Non sono servite a molto le incessanti richieste dell'opposizione di rinviare il DDL in commissione. La legge approderà in aula al Senato lunedì 31 maggio. Un'anticipazione di quanto succederà è già andata in scena ieri con la maggioranza che rivendica il diritto sacrosanto di approvare la legge in aula e l'opposizione che fa ostruzionismo fra chi, come l'Italia dei Valori, si attacca un post-it sulla bocca e chi, come Anna Finocchiaro del PD, definisce il guardasigilli un portaordini di Berlusconi. Quanto alla norma, il bavaglio sembra alleggerito grazie al dietrofront del PDL che ha deciso di affievolire le pene per editori e giornalisti. Il divieto di riferire sulla stampa notizie sulle inchieste viene attenuato con la possibilità di pubblicare riassunti dei verbali di indagine, mentre le sanzioni per gli editori saranno ridotte di un terzo. Vedremo come andrà a finire questo tortuoso, comunque lo si voglia vedere, cammino del DDL intercettazioni. E a proposito dei giornalisti che sono comunque protagonisti, diretti o indiretti, del provvedimento, sicuramente il giornalista più in voga, più in vista, anche in questo caso nel bene e nel male, in questo momento è Santoro. Insomma, doveva andarsene via, sembrava avesse firmato una tregua, forse armata, con la Rai, comunque insomma un armistizio per uscire di scena alla fine di questa stagione di Anno Zero, e invece a quanto pare no, c'è stato un improvviso retromarcia. Il colpo di scena arriva martedì, ce lo racconta Andrea Viali. Si allontana l'ipotesi di una separazione consensuale fra Michele Santoro e la Rai. A neppure una settimana dal suo sfogo in diretta, il conduttore di Anno Zero ha infatti deciso di interrompere la trattativa che lo avrebbe portato alle dimissioni da dipendente della TV pubblica. Un accordo da 10 milioni di euro, secondo indiscrezioni, che oltre a mettere fine al contenzioso giudiziario con l'azienda, gli avrebbe permesso di restare in Rai per realizzare nuovi format televisivi, ma come collaboratore. Le continue fughe di notizie hanno violato l'impegno di riservatezza indispensabile per un possibile accordo, favorendo interpretazioni fantasiose lesive della mia immagine, ha spiegato Santoro nella nota con la quale ieri ha comunicato la sua decisione. Dopo l'annuncio, la direzione generale di Viale Mazzini si è affrettata a spiegare che continuerà, come fatto finora, ad attenersi alla clausola di riservatezza concordata con Santoro, al quale poche ore prima, ieri, si era rivolto anche il presidente della Rai, Garimberti, invitandolo a non lasciare la TV pubblica. Oltre alla vicenda Santoro, la Rai dovrà affrontare anche il caso di Ruffini, che ieri ha vinto il ricorso per la sua sostituzione alla direzione di Rai 3, dove nel frattempo è arrivato Antonio Di Bella. Un giudice del lavoro ha deciso il reintegro di Ruffini. Naturalmente la vicenda proseguirà perché c'è stato ricorso della Rai, quindi le puntate sono ancora molte da venire. Ed ora invece veniamo alla cronaca, perché in questi giorni tiene banco uno dei casi più torbidi, più intriganti anche sul piano giornalistico degli ultimi tempi, ma parliamo comunque di cose comunque davvero inquietanti. Mi riferisco alla triste vicenda della morte di Elisa Claps, perché giovedì si stringe il cerchio nei confronti dell'indagato numero uno, che poi è anche l'unico indagato, e sentiamo i dettagli con Michele Albini. Finora rimane lui l'unico indagato nel caso Claps. Danilo Restivo è già in carcere in Inghilterra con l'accusa di aver assassinato Heather Burnett, sua vicina di casa, nel novembre del 2002. Per questo fatto di sangue il processo comincerà a settembre. La novità è che ieri è arrivata la richiesta di arresto da parte della procura di Salerno. Per i magistrati italiani i capi d'accusa sono omicidio, violenza sessuale e occultamento di cadavere. I resti di Elisa Claps vennero ritrovati nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità a Potenza lo scorso 17 marzo. Secondo alcune indiscrezioni sull'autopsia, che potrebbe essere resa nota oggi, la ragazza morì dissanguata dopo numerose coltellate. Dalla famiglia della vittima emerge soddisfazione per questa svolta delle indagini, che tuttavia, sottolinea il fratello Gildo, è stata elemosinata per 17 anni. Il finale di questa trasmissione è dedicato agli appassionati di tecnologia, perché anche in Italia in questi giorni, oserei dire in queste ore, è arrivato il momento dell'iPad. Ci spiega tutto l'esperto di tecnologia di Radio 24, ovvero Enrico Pagliarini. I primi italiani a riceverlo sono stati quelli che lo avevano ordinato via internet all'inizio di maggio. Le prime consegne sono state fatte già mercoledì, con un anticipo di 2 giorni rispetto alla data di esordio in Europa. Da questa mattina il tablet dell'Apple è disponibile anche nei negozi che vendono elettronica di consumo, e proprio l'iPad potrebbe aiutare il settore, spingendo le vendite sostenute in questo periodo dalle TV di nuova generazione sulla scia del passaggio al digitale terrestre e degli imminenti mondiali di calcio. iPad è una tavoletta grande quanto un libro, che si comanda con le dita toccando lo schermo, che serve prevalentemente per navigare in internet dal divano, sull'autobus e in generale quando non si è alla scrivania. Non è a buon mercato. I prezzi spaziano dai 500 agli 800 euro a seconda che il modello si possa collegare ad internet col solo wifi o tramite rete UMTS. Manca una porta USB, una videocamera e la capacità di visualizzare in molti siti web che usano flash, ma le vendite, che in 2 mesi sono arrivate a 1.800.000 nei soli Stati Uniti, danno ragione alla Apple. Stime non ufficiali dicono che le prenotazioni italiane siano arrivate a quota 125.000. E siamo arrivati anche alla fine per oggi. Tante notizie sono rimaste fuori: la marea nera nel Golfo del Messico, la soluzione appare ancora lontana. Per esempio, non abbiamo parlato di Cannes, che si è concluso con un premio anche all'Italia, importante per l'attore Elio Germano, che però ha polemizzato con la politica italiana. Poi ci sono stati nuovi attentati in Pakistan, insomma tanto altro su cui si poteva e forse si doveva discutere. Ci fermiamo qui, 8° giorno, etteradio24.it. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo, come sempre, poco dopo le 9.